Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail alla quale scrivere, mi raccomando, casi che non siano strettamente personali ma possano rappresentare una collettività, comunque interessare quante più persone possibile. Allora, la mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog invece, mi farà piacere se lo visiterete, è robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Il blog si chiama Guardie o Ladri. Allora, ricorderete che noi ci siamo interessati nel passato, in questa trasmissione, di falsi invalidi, o meglio, di falsi tesserini o comunque tagliandi da invalido, che molto spesso vengono apposti sui parabrezza delle auto, e quindi in questa maniera si possono avere delle agevolazioni per l'accesso al centro storico, per il parcheggio o quant'altro. Abbiamo affrontato il caso di Milano, abbiamo affrontato il caso di Torino, abbiamo affrontato il caso di Genova. Insomma, l'Italia sembra tappezzata da invalidi, molti di questi sono falsi. Oggi ne parliamo spostandoci in un'altra città, e segnatamente Napoli. Ne parliamo con un radioascoltatore che ci ha scritto una simpatica lettera, devo dire molto educata, e questo radioascoltatore siamo costretti, pensate un po' come si vive oggi in Italia, a non chiamarlo con il suo nome, con il suo cognome, ci ha pregato di non farlo, ma a chiamarlo con un più generico Ciro, nome che a Napoli è di casa. Buongiorno Ciro. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci racconterà la sua storia. Nel contempo io ringrazio anche la dottoressa Luciana Tramontano, che è delegata dal comandante della Polizia Municipale di Napoli, il generale Sementa, a appunto dialogare con noi. E la dottoressa Tramontano è un dirigente della Polizia Municipale, segnatamente della prima unità operativa che comprende Fuorigrotta e Bagnoli. Buongiorno Tramontano. Buongiorno, grazie a tutti quanti gli ascoltatori, buongiorno a lei. Allora Ciro, ci racconta un pochettino che cosa ha notato lei di strano proprio di fronte a al mare, a Piazza Municipio, una piazza bellissima di questa bellissima città che si chiama Napoli. Io lavoro in questa zona, quella di Piazza Municipio, per dare un'informazione così di servizio a chi ci ascolta, proprio per capirci forse la piazza principale di Napoli, no? Quella, certo, per capirci di fronte al porto di Napoli, la piazza principale della città, nella quale ogni giorno io ho notato, devo dire la verità, l'ho notato nelle ultime settimane, perché io non guardo i parabrezza delle macchine. Solitamente non lo fa per sport, insomma. L'ho notato su una macchina e poi mi sono accorto che c'era questa, diciamo, densità quantomeno bizzarra di automobili con il permesso per invalidi in questa zona. La cosa incredibile è che una volta che ho notato le prime due o tre macchine, a un certo punto, lungo alcune strade attorno a questa piazza municipio, ho notato addirittura a volte file di 20-30 macchine senza soluzione di continuità, tutte con questo diciamo tagliando permesso sul cruscotto, sul parabrezza. E quindi mi sono chiesto che probabilmente o c'è qualche ospedale per invalidi nella zona di cui mi sfugge il nome, oppure la densità è quantomeno strana rispetto, diciamo, alla statistica di invalidi su una popolazione media. Ecco, assolutamente, assolutamente. Questo è quello che ho notato. Ecco, ma la cosa appunto strana, lei ci scrive anche in questa lettera, è che anche nelle vie adiacenti comunque alla piazza municipio, insomma, ci sono, continuano ad esserci file di macchine, ciascuna con il proprio bel tagliando in vista, macchina guidata da un invalido. Esattamente. Ecco, questa, essendo appunto una zona centralissima, forse la più centrale di Napoli, è forse la zona più vigilata nel senso proprio letterale del termine di Napoli, nel senso che veramente i vigili si vedono a ogni angolo, a ogni incrocio, perché è ovviamente una zona ad alto traffico e quindi altamente vigilata, quindi praticamente queste macchine sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, allora a questo punto la storia è molto chiara. Per amor di cronaca, raccontiamo ai nostri radioascoltatori che ultimamente la polizia municipale di Napoli è stata attraversata e coinvolta da vicende non sempre pulitissime, non sempre chiarissime, sul quale anche la magistratura sta indagando, tra le altre cose un alto tasso di assenteismo, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è questo un motivo per il quale io ancora a maggior ragione ringrazio il generale Sementa per aver autorizzato la dottoressa Tramontano a parlare, perché questo è sintomo, secondo me, di due cose. A, trasparenza, ed un comune è per definizione e deve essere trasparente. B, forse le cose si vogliono cambiare. Allora, dottoressa Tramontano, come stanno le cose in quella parte splendida della sua città? Dobbiamo parlare a questo punto un attimino di un po' di numeri. Prego. Quanto il servizio politiche di inclusione sociale del Comune di Napoli ha emesso nel corso degli ultimi anni circa 33.000 contrassegni per la circolazione dei veicoli adibiti ad uso delle persone diversamente abili. Attualmente abbiamo circa 22.000 autorizzazioni in corso di validità, di cui circa 4.000 al di sotto, una validità al di sotto dei 5 anni. E in questo scorso anno i contrassegni rilasciati sono 3.700 circa, di cui 1.760 di carattere permanente. Certamente un dato che risulta credibile, quello che il nostro concittadino ha lamentato e ha segnalato nella vostra, nella mail a voi giunta, e proprio per arginare questo fenomeno di uso illecito di questi particolari contrassegni. Anche perché sennò sarebbe strano, 22.000 persone si concentrerebbero tutte su piazza municipio ogni giorno, no? Ecco. Strano. Ecco. Diciamo che lo stesso dipartimento si è stato coinvolto del problema, per cui sarà adottato un nuovo contrassegno che ha caratteristiche tali da poterne rendere difficile la duplicazione e la contraffazione, in quanto verranno effettuati con degli strumenti tecnologici, con dei numeri progressivi, con etichette olografiche che saranno poi associate a dei codici identificativi. Ecco, ovviamente questo qui... I controlli ovviamente che comunque si faranno, che si fanno e si sono sempre fatti, questi in ogni caso. Ecco, dottoressa Tramontano, però, detto che ovviamente nella vita tutto è falsificabile, comprese le pecore, ci sono i cloni, i condolli, figuriamoci se la fantasia dei malavitosi campani non giungerà anche a clonare questi nuovi contrassegni. Ma questo accade in tutta Italia, ovviamente, quindi lungi da me pensare che lì accade più che altrove. Anzi, chi mi conosce, chi sente la trasmissione da oltre un anno, sa che noi raccontiamo il malcostume in tutta Italia, dalle Alpi alle piramidi, potrei dire. Però le chiedo questo: il nostro radioascoltatore ha fatto presente anche un'altra cosa, cioè ha detto, strano però, perché quella zona è molto vigilata dai vigili, mi scusi il gioco di parole. E allora cosa c'è? Negligenza, paura, ci si chiude un occhio, difficoltà a capire quali sono quelli che veramente sono invalidi, quelli che non lo sono? Mi spieghi un po' come stanno le cose, dottoressa? Diciamo che praticamente il controllo viene fatto quando c'è la possibilità di acquisire materialmente il certificato del diversamente abile. Noi praticamente si fa un controllo mirato con il permesso rilasciato, abbinato ovviamente alla persona che deve essere a bordo dell'autoveicolo, e questi sono comunque controlli che vengono fatti e anzi noi abbiamo proprio un ufficio deputato anche a questi specifici controlli, con il ritiro dei permessi che risultano falsi in quanto appunto sono intestate a persone inesistenti o anche decedenti. Certo, ecco, ora le faccio che si fa un'attività di questo genere. Ecco, le faccio questo tipo di domanda alla quale lei mi potrà rispondere, dice sì, bravo, adesso tutti quanti lì li mettiamo i nostri vigili. Però le chiedo, visto che c'è stata questa segnalazione, per carità di Dio, la stampa locale, altre trasmissioni in tutta Italia, chissà quanti ne segnalano di questi casi, ma mi domando, non è possibile pensare anche ad un'azione mirata, ma che sia anche educativa, vale a dire, domani 10 vigili urbani battono a tappeto piazza municipio, così lo fanno per una serie di giorni, per una serie di settimane, in maniera tale da far capire chi veramente comanda in quella zona, cioè comanda lo Stato rappresentato dai vigili urbani. Mi risponda, Tramontano. Ma sicuramente sicuramente si può anche fare un discorso di questo tipo qui, ma non credo che sia poi così altamente educativo, mi scuso, come dice lei, perché certo. Sicuramente per una settimana otterremo un risultato, ma è un risultato che io devo guardare non soltanto per quella settimana, ma che deve essere nel tempo, costante nel tempo. Quindi sicuramente il controllo deve essere costante e continuo. Assolutamente d'accordo su questo, certo. Intervenire in questo modo, io per una settimana faccio questo, poi purtroppo, poiché le nostre attività, non voglio essere ripetitiva, sono tante, sono molto di più, certo. Quindi diciamo che il controllo deve essere costante nel momento in cui, ecco, c'è la persona, c'è la macchina che durante i controlli al codice della strada, alla viabilità, fermare anche e soprattutto le auto che espongono questi contrassegni e procedere ai controlli. Bene. Quanto riguarda le auto che espongono questi contrassegni nelle soste, c'è da dire che la competenza è degli ausiliari del traffico della Napoli Park, che gestisce e ovviamente in sinergia con noi, nel momento in cui loro ritengono che quel logo possa dare adito a qualche, diciamo, perplessità, loro ce la segnalano e noi interveniamo sulla macchina per i dovuti controlli. Questo per quanto riguarda le soste. Per i controlli, diciamo, al codice della strada, sicuramente devono essere controlli continui e costanti, le ripeto, perché l'educazione, ecco, deve essere in generale, non soltanto limitata per una settimana. Sinceramente si fanno anche di questi tipi di interventi, però poi alla fine il risultato è poco soddisfacente. Ecco, scusatemi se vi interrompo, grazie a Tramontano della Polizia Municipale di Napoli e al nostro radioascoltatore Ciro, in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Faggini, Roberto Galullo vi dà appuntamento ai prossimi giorni, perché riprenderemo questo argomento ripartendo da Napoli con i nostri ospiti, ma poi spostandoci nelle vicinanze. Da Roberto Galullo una buona giornata a tutti.